English Bit di Giulia Crivelli. Make or break? Is this the last Black Friday? This could be a make or break holiday shopping season for some of America's retailers. Quello di quest'anno sarà l'ultimo Black Friday? Questa potrebbe essere la stagione di shopping natalizio decisiva per le sorti dei negozianti americani. La CBS titolava così un servizio trasmesso alla vigilia del Black Friday, il venerdì dopo Thanksgiving, che cade ogni quarto giovedì di novembre. Una giornata che, ormai dalla fine dell'Ottocento, gli americani dedicano allo shopping, fino a pochi anni fa solo nel mondo reale, da qualche anno pure online. Anche se gli acquisti sul web, in teoria, andrebbero fatti nel Cyber Monday, lunedì successivo a Thanksgiving. Così si spiega il titolo del servizio della CBS. Se gli acquisti 2017 si sposteranno, come alcuni prevedono, massicciamente su internet, molti negozianti tradizionali potrebbero subire il colpo di grazia. L'espressione che ci interessa è make or break, che in italiano potremmo anche tradurre con o la va o la spacca. This movie will make or break him as a director. Questo film decreterà se ha la stoffa del regista oppure no. It's a make or break moment for the company. È il momento della verità per l'azienda. Make, verbo irregolare, to make, made, made, è tra i più versatili della lingua inglese. The doctors think he's going to make it. I dottori pensano che ce la farà. I don't know how you'll make it through this week. Non so come farai a superare questa settimana. It's my first trip abroad, so I'm going to make the most out of it. È la prima volta che faccio un viaggio all'estero, quindi cercherò di sfruttarlo al meglio. I don't know what to make of the new manager. Non so cosa dire del nuovo manager, non riesco a farmi un'opinione. She's not as rich as people make out. Non è così ricca come le persone pensano. Has he made it up to her? Ha riparato il torto che le aveva fatto? Makeup, come sostantivo, significa trucco. She never wears makeup, non si trucca mai. Un accenno a break, anch'esso irregolare. To break, broke, broken. Versatile quasi quanto make. To break up significa lasciarsi. To break in, rapinare una casa. To break through, scoprire. To break off, staccarsi, e to break free, come cantava Freddie Mercury, vuol dire liberarsi.